qualcuno qua? Attenzione, canale 10, CQ canale 10. Disturbare che sto mangiando, eh? E allora mangia con buongiorno. Caspettina, mi disturbate con questi fischi? Cazzo, io sto mangiando e voi mi disturbate la digestione così. No, è che stavo chiamando mio cane, il mio bimbo ha schiacciato la portante. Ora, ora, ora, e adesso? Oh, la radio è tutta messa male, guarda. Non capisco neanche chi eri. Ho fatto la battuta così perché veramente stavo pranzando. Ho capito. Ma non sta innescando ancora? Sì, innescando. Mattino sì, guarda, sta innescando. Sono volato a radio, Natalia, aspettatemi. Guarda se sta innescando ancora. È una radio tremenda, non sei mai uscito così male. Aspetta, aspetta. Via Mattino, a te. C'è sempre un principio di innesco, però adesso ha migliorato, ma come schiacci c'è questo innesco ancora. Adesso sono dentro casa, eh. E però è rumorosa la radio, non è la tua solita, ma no, vabbè, la mia solita è questa, quella era un'altra da combattimento, questa è la mia. Si spieghi allora. Canta da combattimento, mia gazzotta, in pazzia. Ero dentro il container che stavo saldando un mic e niente, non prendo la rifortuna quella là, vai. Sì, cappa, anda bene Meda. No, vabbè, e poi l'altro invece è un casino, aspetta che ti metto l'altro. Ma sto mangiando. E allora? Io mangio presto, mangio. Ah, e allora vabbè, continuo a mangiare e poi magari facciamo due prove, dai. Sì, anda bene, Meda, dai. Se no poi vengo, te prendo il piatto sotto lo... va bene, dai. Attento, briciola! Su che andiamo, su! Rigido, Fiorellino! Uè, briciola! Ciao Manuè! Beh, Natali, a posto, sì. Ehi, Mimmo, ho mangiato un po' di quei rigattoni col coso, con i frutti di mare mi ho fatto. Gli ho fatto un bel sughetto, gatto, qua. Su che andiamo? Vai, vai, su che andiamo, buono così. E io penso che mi si andava. Adesso mangio e mi ci trovo a ricoricare. Ma ci ho fatto 15 zuri all'inutti. Sì, c'hai ragione, devi riposare un po', Guglielmo Grido. E un mediente non vi credi che è sacrificato il suo mestiere? Ma a fare quel mestiere devono avere le palle, però, non andare a fare. No, devi fare un travaglio. E soprattutto avere la testa sulle spalle. Infatti bisogna saperlo fare, noi tutti, uno se ne è fuggito, uno lo conosco io. Quando ti vediamo di persona gli altri lo dico la situazione. Già lo posso immaginare, già ne conosco di gente che voleva fare chissà cosa, quando l'ha messo a farsi 15-16 ore è stato un paio di giorni. E va bene così, e va bene così, uia, se la vendeva a chiamare. Ero lì a dove c'era la fabbrica di mattura, poco ottobre, e stava più o meno stamattina. E cosa si affittendi, Manuè? No, qui adesso ho preso una paletta che mi ha dato un amico mio ieri. Adesso mi assaggio un pezzo di quel formaggio lì, di quella paletta lì, quindi mi sono preparato un po' di ragù con la pasta salata e poi l'impanato, e se che andiamo anche oggi. Ah no? Adesso lo devo fare. Devo tenere in forma, se no non ce la faccio a reggermi in piedi durante la notte, Natali. Perché se arrivano certi mascalzoni mi danno una manata e mi curicano. Ma un chi ti sei mangiando la manata per accudir tu? Manuè, quando fai così io ti temo a te. Che sono delicato io, Natali, sono una persona delicata. Chiaro, so che sei delicato, ieri vai piano piano. Sono un po' della buccia, buru. Ehi, a te noi, a me te. Buongiorno. Buongiorno. Ah, Natalia, lo sento attino. Ah, lo sento, se non sento attino non bisogna che ci butti tutto, ci devo buttare. Sono un piccolo basso e nero. E allora? Ma te l'immagini, ti inizia a vedere se ti sento. Se sento a lui, a te, ti tendo fondo scala. Vabbè. Che ci va? Siamo vicini, dai. Siamo vicini, sì. Ma blocco mi ho, Natali. Cosa, Manuè? A blocco voglio prendermi. Quella è bella, eh. E poi funziona dove vuoi tu va. Capito, non è come te guida che pisanti. Guida che pisanti andà in basso, a sinistra. Già lo so, ma io ho la 9x21, dalla beretta è preso un casino preso. E voglio prendere quella lì che rimane leggera. Adesso vediamo. E poi costa una cazzata a confronto a quella pesante. Quella pesante la dovresti prestare a me. Così io ti faccio provare la mia. E quelle che c'hanno il carabinieri, c'avevano prima il carabinieri, adesso l'hanno cambiata loro, non so quale hanno preso, prima c'avevano la 9x21. Ma perché ora è libera la vendita, Manuè? No, adesso anche la Parabellum, anche la mia, se li cambio la canna, solo la canna, la faccio Parabellum, perché la mia è 9x21, siccome il Parabellum è più corto, 9x19, e allora vuole cambiata la canna, però adesso è sbloccata la situazione, già è permesso il 9x Parabellum adesso. Come l'ho presa io non facevo. Andare, no, io me l'ho venduta fuori, ora ho tenuto la piccolina così per gioco, tanto che ne faccio, cazzo, sì, fucili in casa, non so neanche a chi darli. Ah, tieni, te lega se un bella, devi prendere, devi prenderti quel mobile con la vetrinetta, se un bella a tenere in sala. No, no, io la fucilera in acciaio. Ma uno con la panfuglio, è puro latte. È bella quella, è bella. Cazzo, però la Glock, quella che stavo dicendo a Carino, 1.300-1.400, adesso non so se hanno abbassato un po', ma costano bene. Ah vai, che costa 650 euro la Glock, cosa si dizendi? La Giu, la 17 ciò. La Beretta costa così. Ma quale? Quella che c'aveva in Italia, ma mi sai quella che aveva in Italia, aveva pagato a 1.200 o 1.300, non te la metti? 800 euro, la GZ va via Emilio, quella è bella lo stesso, tipo la Tanfuglio, la CZ, però è meglio la Tanfuglio, quella c'aveva Emilio, era di lusso, l'ho anche provata. La Glock ce l'ho io, la 17, quella lunga, e costava 650 euro. Se va, arrivi da 1.000 e rotti, non lo so. Io so che la Beretta costava 1.200 qualcosa. Là. La mia sì, veniva 1.000, 1.200, ma ti parlo di 20 anni fa, però, la Beretta, quella 9x21, 15 colpi, perché c'è anche quella da 10, col caricatore da 10 e quella da 15. Ah, lo so, la mia ne ha 17 colpi. C'è il caricatore da 15 e da 17, però la Glock nasce con 17, capito? La mia, se l'ha avuta, la faccio provare. Andiamo al campo dove andate voi a sparare e spariamo lì. Io siamo andati una voce, altrimenti. No, questo è un altro campo. Noi andavamo alla Crucca. Vabbè dai, ne approfitto, dai, ci sentiamo altra giornata stasera. Oh Natalia, ciao Tino, ciao Natalino, tanto già sono di riposo stasera, dai. Ce la riascoltiamo, vai Natalia. Allora, ce l'ascoltiamo più tardi allora. Ciao Manuel, riposati, dato che sei in riposo. Ciao anche Tino, io me ne passo in QRT, da che c'ho gente a casa. Eia, va bene, va bene. Ciao ciao a tutti e due. Buon primo maggio, buona festa. Ciao a tutti. Attenzione Maccolino Condo, fatta là la colazione. Non rispondi, no?